27 novembre 2014, la delegazione internazionale femminista che è andata in Rojava appunto per il 25 novembre 2014, ovvero per la giornata contro la violenza degli uomini sulle donne, nei vari incontri che ha fatto, ha incontrato anche rappresentanti dell'Accademia di Diritto. Come sappiamo, l'Accademia è un luogo di elaborazione politica, di presa di coscienza e di formazione professionale in cui le persone, gli uomini e le donne, vanno per alcuni periodi per studiare e per approfondire, inquadrare, costruire il proprio ruolo all'interno della società rivoluzionaria e rivoluzionata del Rojava. Nell'Accademia del Diritto abbiamo incontrato varie donne e vari uomini. Andiamo ad ascoltare quello che ci hanno detto. Parla Jeanne Herbem. آکادمی پروردهش خود است بکی سر پرورده اساسی سر دیروکی تاریخی دبینه سر فلسفه دبینه لسر جن دبینه لسر قانون حقوقی دولت های گوهی دبینه قانون جواکا دموکراتیک چیل سر وان دبینه یعنی اصول وان و محکمات و قانونی وان سر وانا بیسر پرورده Nell'Accademia lavorano 6 persone come amministratori e amministratrici. Poi ci sono 26 componenti, quindi in tutto siamo 31 persone. Gli studenti hanno fra i 16 e i 36 anni, ma la maggior parte ha dai 19 anni in su. دمله ام بیش انتقیش نه زانست دمله فکر ده دمله شخصیت آواکرن ده اویا جبه شکی جلیسه او جد ناوینه L'Accademia è un luogo di formazione sulla storia, la filosofia, le donne, le leggi degli stati e le leggi democratiche della società civile, nonché sul modo di lavorare nel campo giuridico. Ci sono lezioni su diversi argomenti, tra cui anche i media. Nell'Accademia c'è anche un archivio. Insieme a tutto questo, in parallelo, si studia il modo di diventare una persona libera, il modo in cui si può realizzare un'idea e formarsi un nuovo carattere, come si può diventare una persona scientifica. Her demdem kare vanate şopandın, kare xaçavadı kin çavadı meşinin çavadına meşinin her demdem vana kare vanate şopandı çünkü na kadre kuş pevisti heş bu sistem acaba ka demokratik an bastıken kovana bıçın erk bıdırın tevli karbın. Una persona, quando viene qui all'Accademia, deve completare un ciclo di studi di 4 mesi, poi comincia la pratica e noi la seguiamo. Guardiamo come si muove nella pratica, se ha capito bene o no, perché l'Accademia deve rispondere ai bisogni della società e le persone devono essere pronte alle richieste della società democratica. Dopo il periodo di prova, se sono pronte, vanno a lavorare in vari luoghi a seconda delle loro capacità. Noi critichiamo i sistemi di giustizia statalisti, sono antidemocratici. Non vogliamo costruire uno Stato, ma delle autonomie democratiche. Quindi dobbiamo riempire il vuoto dello Stato sulla giustizia e correggerlo con il nostro nuovo modello, formando persone che possano rispettare i principi democratici della società civile. Per questo esiste l'Accademia del Diritto. Il nostro sistema formativo non è quello di far imparare a memoria le cose. Al contrario, cerchiamo di far capire alle persone la mentalità della società democratica. Per esempio, ogni persona mostra un po' di egoismo e di voglia di egemonia e così, quando prende il potere, diventa un mostro. Il nostro metodo educativo prevede la critica al sistema in atto, oltre che la trasformazione di quei caratteri che creano ostacoli alla costruzione della società civile democratica. Parla Anita Shek. Una cosa molto importante da aggiungere è che nel sistema della giustizia dello Stato il diritto delle donne non è difeso come dovrebbe essere. Magari ci sono le leggi, ma sono solo parole. Invece, noi abbiamo preso come base i diritti delle donne e abbiamo leggi particolari per le donne nel nostro sistema di giustizia. Ogni persona che esce da questa accademia deve rispettare queste leggi sulle donne, non solo perché sono leggi, ma perché le reputa importanti e vi crede. Vogliamo una vita equa e veramente insieme, una vita libera. Le leggi delle donne che abbiamo scritto ancora non prevedono quali pene dovrebbero essere adottate, ma sono state accettate ufficialmente dal Parlamento. Per esempio, secondo le nostre leggi, sposarsi con due donne è un reato. Chi lo fa non è accettato. Se un uomo vuole sposarsi con un'altra donna, deve prima divorziare e poi sposarsi di nuovo. Inoltre è vietato, anzi è considerato un crimine, non riconoscere la volontà di una donna. Alcuni diritti delle donne sono il diritto alla propria volontà, il diritto al matrimonio, il diritto ad avere dei bambini, il diritto alla proprietà, una percentuale dovrebbe spettare anche alle donne, il diritto all'affidamento dei figli e delle figlie in caso di divorzio, e così via. Il sistema dello Stato siriano non prevede che le donne possano possedere un patrimonio, né che possano essere affidatarie di figli. In Siria le donne non hanno diritti, è il maschio che detiene il patrimonio. Non si dovrebbe guardare alle donne come lavoratrici di casa, ma come lavoratrici della società, e si dovrebbe riconoscere la loro fatica in ogni momento della vita. Quando parlo delle leggi per le donne che sono state approvate in Rojava, intendo questo tipo di articoli. Sono argomenti molto delicati, anche per le donne. Questo significa che le donne si devono muovere molto sensibilmente quando si occupano delle leggi nella società. Yani o farqiyeta ku jin misal de et devletat nizam ezid naiditin ku jin be hakime ki ta asir jurad kar bil jin khob girin abbe adalat ya sarjin de kar bil be shedad ga haji ve mafay. Parla un ragazzo. Mara والايكولوجيا والديمقراطيه. Per noi ci sono tre cose principali: le donne, l'ecologia e la democrazia. Questi tre principi sono fra loro collegati e molto importanti, non separabili l'uno dall'altro, e la nostra accademia si articola intorno a questi principi. Nell'accademia finora abbiamo fatto due cicli di 4 mesi, adesso stiamo portando avanti il 3° ciclo. Per 4 mesi facciamo teoria, poi la pratica, e la teoria vanno portate avanti contemporaneamente. Inoltre, una volta ogni 2 mesi le persone devono tornare all'accademia per condividere le esperienze fatte e fare rapporto sulla loro pratica. Io ho studiato giurisprudenza nell'Università dello Stato Arabo in Siria. Si doveva andare all'università per 4 anni, poi si faceva la pratica, ma nessuno era interessato se eri brava oppure no. Da noi qui non è così, le persone si educano, non c'è nessuno che insegna loro, ma imparano nella vita sociale. In questo metodo dà molto di più in termini di creatività e rende le persone molto più empatiche. È un metodo di maggior qualità. Da noi è importante non allontanare le persone dalla società e viceversa. La società, non allontanare la società dalle persone. Non possiamo dire che viene prima la persona da sola o che viene prima la società da sola. L'una non può andare avanti senza l'altra. A questo punto chiediamo come funziona il sistema giuridico, chi sono i giudici, cosa fanno e come vengono eletti. Ci rispondono così. Dobbiamo spiegarvi il sistema per farvi capire come lavoriamo. Quando c'è un problema sociale, prima di tutto si va dai comitati di pace della zona dove si è verificato il problema. Nel nostro sistema, in ogni tribunale, ci sono 3 giudici che collaborano insieme e hanno 2 vicegiudici. I vice giudici possono essere anche 3 o 4, a seconda delle necessità della zona e della grandezza, quindi di quanta popolazione vi vive, della giurisdizione. Per esempio a Kamishlo abbiamo 4 vice giudici. Non si tratta di giudici come nel tribunale statale. Per diventare giudici si devono fare 4 mesi di accademia. Ma quando abbiamo messo in piedi il sistema, all'inizio, non c'era ancora l'accademia e così abbiamo dovuto ricorrere ad alcuni giudici esperti, scelti per non lasciare un vuoto nel sistema. Adesso invece prepariamo i giudici con l'accademia. Anche quelli che hanno cominciato a lavorare subito adesso devono passare dall'accademia e condividere le esperienze fatte. Così sapremo se possono far fronte alla responsabilità di giudice o meno. Se c'è un'inchiesta, l'accusatore va a fare la ricerca sul posto e parla con tutte le realtà interessate. Poi, basandosi sulle leggi, porta il caso in tribunale e il tribunale discute e decide. Se la decisione del tribunale non viene accettata dalla persona, questa entro 15 giorni ha diritto di opporsi e portare il caso al tribunale di secondo grado. In questo modo non vengono negati i diritti del cittadino. Abbiamo 2 tribunali, uno civile e uno penale. Ogni tribunale ha 3 giudici dello stesso grado. In realtà non vogliamo che la persona venga subito accusata e portata in tribunale o che venga arrestata e messa in carcere. Anzi, vogliamo che si risolva il problema nei comitati di pace, nei quartieri. Altrimenti, se non è possibile, si va alle assemblee della città che si occupano di risolvere le questioni sociali. Se non si può risolvere nemmeno in questi comitati sociali, allora si può andare oltre e chiedere un'inchiesta. L'importante è che i problemi si risolvano all'interno della società stessa. Il tribunale non ha diritto di decidere da solo i casi di grande rilevanza. Può decidere sui piccoli casi che non hanno un grado di importanza sociale per tutta la regione. Per noi è importante che la popolazione partecipi alle decisioni sociali più delicate. La comunità deve partecipare alle sedute del tribunale e dire la propria, fare proposte per una soluzione e facilitare una decisione. Un processo non vuol dire che 3 giudici decidono tutto e tutto finisce con loro. No, ci sono dei fatti che possono danneggiare la società in maniera pesante. Ci sono vari casi molto seri per i quali non possono decidere 3 persone, anche se esperte. L'importante è che in questi casi sia espressa la volontà della società civile. Non dimentichiamo che siamo contro il sistema giudiziario dello Stato, che non prevede la partecipazione della società civile, della gente. In Rojava ci sono i comitati, i gruppi locali dei quartieri, dei villaggi e delle città. Inoltre, ovunque c'è una giuria che è eletta dalla popolazione e che è formata da persone di cui tutti si fidano e in cui tutti credono, la cui equità è accettata e rispettata. Queste persone possono essere cambiate dal popolo quando è necessario. Altyazı M.K. آوا زمزمی پاک کلا باخچا بینترم جوان هز بکرم مینا سرکی گشن آوا زمزمی پاک کلا باخچا بینترم جوان هز بکرم جنجیان آزادیه هی هی جنجیان آزادیه جنجیان آزادیه هی هی جنجیان آزادیه هم اینن جیانن لاسیمان پیروزن هم اینن جیانن لاسیمان پیروزن جنجیان آزادیه 7 novembre 2014 la delegazione internazionale di donne in Rojava incontra Lea Saisha Gine, le forze di sicurezza pubblica delle donne. Parla Nalin Kozi, che è responsabile della stazione di polizia e del centro di addestramento. Qui a Kamishlo, nella Saisha Gine, siamo fra le 40 e le 50 donne. Abbiamo iniziato 3 anni fa, quando il governo siriano ha smesso di prendersi cura della popolazione a Kamishlo e in questo cantone. Facciamo parte solo delle Saisha Gine, ovvero le forze di sicurezza pubblica delle donne, e svolgiamo un lavoro differente rispetto a quello delle YPG, le unità di autodifesa delle donne. مثال أي جن تعرض شدته ببي طبعاً وينمرضح بهذا الجمزلان دلي خرج بجمزلان. Abbiamo due principali compiti. Il primo è collaborare con la casa delle donne. Quando le donne vanno da loro per discutere dei loro problemi, per esempio con il marito o con un altro membro della famiglia, noi interveniamo se occorre allontanare l'uomo o anche metterlo in carcere. Il secondo ruolo che abbiamo è intervenire nei casi in cui le donne vengono vendute in Turchia. Interveniamo anche nei casi in cui sono delle donne a commettere reati. Siamo parte del sistema della giustizia e ci occupiamo solo di donne. Chiediamo, c'è un carcere qui? Non abbiamo costruito nessuna prigione, usiamo quella antica però, ma non abbiamo punizioni, la detenzione serve alla rieducazione. Le persone che sono portate in carcere fanno un lavoro di formazione, imparano la lingua curda, a leggere, a scrivere e vengono osservate. La carcerazione dura fra i 6 mesi e 1 anno. Per esempio, c'è stata una giovane donna che ha ucciso il padre ed è stata trattenuta per 1 anno intero, cioè il massimo. Le persone, quando vengono rilasciate, sottoscrivono un contratto con il quale si impegnano di fronte alla comunità a non commettere altri reati e a non lasciare il paese affinché si possa osservare la loro condotta. Chiediamo, cosa distingue questa polizia da quella che abbiamo noi in Europa? Prima della rivoluzione i curdi non avevano alcun diritto. Non potevamo studiare nella nostra lingua, né votare i nostri rappresentanti. Abbiamo subito molto il sistema punitivo del governo siriano. Per questo non vogliamo punire le persone, così come fate voi in Europa, e abbiamo creato un sistema di rieducazione. Spesso le persone, dopo solo 2 mesi, sono pronte ad uscire di prigione. A volte decidono di unirsi alle Asaish. Chiediamo se prendono uno stipendio. No, non vogliamo uno stipendio per il lavoro che facciamo. Dovete quindi fare un altro lavoro per vivere? No, se abbiamo bisogno di soldi li possiamo chiedere all'organizzazione, ma non si tratta di uno stipendio. مال باقي مهن مستر باقي مهن أهلي مهن زوج إسلامي Nothing.